La battaglia di topi e di donnole, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Se penetrar le donnole potessero nelle strette casupole dei topi, vedreste quelle bestie in men d'un'ora fare di lor polpette, tanto è l'odio che sempre le divora. Un anno che sul numero poter contar dei suoi rettopolon, l'esercito spiegò dei topi eroi. Di contro anche le donnole spiegarono le bandiere e le schiere respingono le schiere. Ondeggia la vittoria, di sangue i campi scorrono, ma alfin narra l'istoria, i topi le toccarono. In fuga vanno, scappano, per quanto Psicarpace e il gran Meridarpace e il forte invitto Artapace sostengano il conflitto. Alfin bisognò cedere soldati e generali, ma se la minutaglia e la minor canaglia poter trovare ricovero nei buchi e nelle fratte e ringraziar le stelle, i pezzi grossi vi lasciar la pelle. E la ragion fu questa che sui nemici per incuter tema o per segno di grado e dignità avea ciascuno in testa qualche cimiero o piuma o diadema. Se pei crepi passò la razza paglia, per quanto numerosa, per le piume non fu la stessa cosa. Non è picciol pericolo, amici, aver la testa coronata e i troppi lunghi strascichi tolsero a fior d'eroi la ritirata. Qualunque evento accada, state sicuri, o piccoli, che avrete per scappar sempre una strada. Fine della favola. Battaglia di topi e di donnole. Questa registrazione è di dominio pubblico.